Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi ho un'idea da proporvi, una attività da praticare all'aperto, già ci piace, che tonifica gambe e braccia molto molto bene e che ci aiuta a fare fiato, come si dice. Posso anche dirvi che arriva dalla Svezia, che prevede l'uso di bastoncini, ma sono diversi da quelli che stai immaginando, e che ha il vantaggio di unire i benefici della camminata nordica a quelli di una sessione di fitness. Vi alluzza l'idea? Bene, allora cerchiamo di capire se fa al caso nostro e nel caso come possiamo fare per attrezzarci adeguatamente. Oggi ho una coppia di esperte, una è di casa ed è Viviana Ghisardi. Ciao Viviana. Ciao, buongiorno, buongiorno. Personal trainer, dottore in scienze motorie, che con i suoi esercizi sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute ci ha accompagnato durante tutto il lockdown, ci ha fatto lavorare sodo, ma così abbiamo evitato il mal di schiena, le maniglie dell'amore, la pancetta e quant'altro. Viviana, grazie. E si aggiunge Barbara Racchetti, che è una trainer, giornalista, e che ci parlerà appunto di questa proposta svedese. Ciao Barbara. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Allora Barbara, si chiama bungee pump, qualcuno l'ha definita l'evoluzione ammortizzata del Nordic Walking. Fammi capire per bene cos'è e come funziona. Sì, il nome è un po' surreale, in realtà si potrebbe confondere con il bungee jumping, ma ovviamente non ha niente a che vedere. No, a parte le battute, è una camminata che si svolge con l'ausilio di bastoncini particolari, che può far ricordare quelli da Nordic Walk, ma in realtà è molto diversa. È sempre una camminata attiva da eseguire all'inizio con un istruttore che ne spiega la tecnica, ma che poi si può fare da soli. Questo è il grandissimo vantaggio, anche da soli all'aperto. L'unica cosa che ci vogliono appunto questi bastoni particolari. Ecco, ma che cosa hanno questi bastoni o bastoncini rispetto a quelli della camminata nordica che siamo più abituati a vedere? Sì, i bastoni che vediamo in giro, che poi la gente peraltro usa anche male, perché bisognerebbe capire la modalità migliore proprio per farli funzionare al meglio, sono bastoni più pesanti, più spessi, hanno un diametro maggiore, hanno un'impugnatura diversa, ma soprattutto, e questo è il grande vantaggio, hanno all'interno una piccola resistenza fornita da un elastico che si può montare a piacimento a seconda dei risultati che si vogliono raggiungere. C'è un elastico da 4 kg e così via via 6, 8 e 10, si arriva fino all'elastico da 10 kg. Come funziona? Ogni volta che si preme con la mano sul bastone si esercita una forza concentrica, quindi in pressione di 4 kg, ma anche eccentrica, perché quando si spinge il bastone all'indietro non lo si rilascia come nella vera e originale tecnica del Nordic Walking, ma si continua a premere. Questa pressione continua fa venire dei bicipiti e dei tricipiti pazzeschi. Scolpiti! Senti Barbara, tu hai detto che è meglio all'inizio farsi accompagnare da un istruttore, perché non basta fare, bisogna fare bene ed eseguire i movimenti in modo corretto. Ma è semplice o ci vuole tempo per imparare questa tecnica? Di per sé è molto semplice, ma sai qual è il problema, Nicoletta? Sono rimasta anch'io colpita quando ho fatto il corso per diventare istruttore, che le persone, anche gli adulti, non semplicemente i ragazzi, le persone non riescono a coordinare il movimento delle braccia e delle gambe e si finisce per camminare in ambo, tra virgolette, si dice. Cioè, invece che muovere la gamba sinistra e il braccio destro e viceversa, come nella camminata normale, le persone quando hanno in mano questo attrezzo cominciano a camminare un po' come i gamberi. Quindi gamba destra e braccio destro, gamba sinistra e braccio sinistro. È una cosa semplicissima che fa parte del nostro modo di essere e di vivere, che viene dall'evoluzione, ma che la gente non sa fare. Quindi si tratta solo di apprendere la circolarità e la ciclicità di questo movimento e capire come spingere bene con il bastone. Viviana, vengo da te perché tu lo sai bene, tutti vogliamo tornare presto in forma, ma è vero che questa camminata particolare con questi bastoncini su cui esercitiamo questa pressione tonifica e anche fa dimagrire molto di più rispetto alla camminata nordica tradizionale? È vero? Allora, è vero, perché quando noi genericamente andiamo ad abbinare il movimento di più parti del corpo, è come se in realtà richiedessimo al nostro motore un consumo maggiore di benzina, e quindi già questo, come dire, innalza la richiesta calorica certo, che viene fatta al nostro corpo durante l'esercizio. Quindi possiamo dire che a parità di tempo già stiamo bruciando di più. Poi questo lavoro di premere il bastone e lavorare contro una resistenza pressoché costante offerta dall'elastico fa sì che i muscoli, quelli che si chiamano genericamente antagonisti, cioè quelli che hanno un lavoro uno opposto all'altro e che di solito negli esercizi convenzionali in palestra vengono allenati in maniera analitica, cioè prima i bicipiti e dopo i tricipiti, con questo lavoro degli elastici, così come per esempio avviene anche in acqua, lavorano in maniera pressoché simultanea, quindi tu hai nella stessa unità di tempo molto più lavoro, cioè non devi allenare un gruppo poi passare ad allenare l'altro, è proprio una cosa in continuo, in ciclo, per cui effettivamente la risposta in entrambi i casi è sì, si bruciano più calorie e sì, ci si tonifica molto più in fretta. E poi si può praticare all'aperto, ci si muove all'aperto e questo ha sicuramente tanti vantaggi. Questo ha tantissimi vantaggi, anche perché devi tenere conto che con questa questione del lockdown noi in realtà il passaggio di stagione non lo abbiamo vissuto, siamo stati tanto tempo dentro casa e poco esposti alla luce del sole, e noi sappiamo, ma non è perché ce lo diciamo io e te, ma ci sono valanghe di studi, e molti di questi studi vengono svolti proprio nelle università del nord Europa, sugli effetti anche solo della luce del sole sulle strutture fotosensibili del cervello, serotonina, melatonina, umori, quindi cioè ormoni che regolano il buon umore, la mancanza di alternanza corretta del sonno e della veglia, cioè sono tutte delle problematiche che noi in questo momento viviamo ancora più fortemente a causa del lockdown. Quindi sicuramente lavorare all'aria aperta, al di là di riempirsi gli occhi di luce e farsi bene in tutte queste direzioni sull'umore e quant'altro, quindi riappropriarsi degli spazi esterni in questo momento è ancora più importante di quanto non ci fossimo dette gli anni scorsi, ecco. Barbara, si fa all'aperto, ma è come se si facesse una seduta in palestra, perché i bastoni, come ci hai detto, diventano come degli attrezzi di fitness. Questo in pratica che vantaggi ci offre? Aiutaci descrivendoci magari una seduta di allenamento. La cosa positiva è che mentre fai l'attività aerobica data dalla camminata, di intensità più o meno forte in base al tuo grado di allenamento, alla tua capacità di resistenza, all'età, allo stato di salute, eccetera, quindi oltre ai vantaggi della seduta squisitamente aerobica, avvieni dei circuiti di tonificazione. Per esempio, si possono fare 10 minuti di camminata bella energica per riscaldarsi e mettere in circolo anche un po' di adrenalina, che è importante. Dopodiché si possono fare dei circuiti, per esempio la proposta potrebbe essere 5 circuiti di fartlek, ovvero delle serie di esercizi con sequenze di 30, 20 e 10 secondi, quindi potrebbe essere 30 secondi di squat, che vi assicuro sono tanti soprattutto per chi non è allenato, 20 secondi di affondi e 10 di piegamenti sulle braccia, e poi si ripete 30, 20 e 10. Barbara, ma ci mandate un video che così noi lo postiamo e capiamo bene? Io sono qua già che penso se riesco a coordinare il braccio con la gamba. Comunque ce la faremo. Immagino, lì per lì può sembrare difficile, ma in realtà appena ci prendi la mano, Nicoletta, è veramente divertente. Il piede, in questo caso il piede, il bastoncino e il braccio. Viviana, come tu, le attività aerobiche è anche amica del cuore, perché tra l'altro aiuta anche a fare fiato, ma secondo te è adatto e consigliato anche a chi già pratica con soddisfazione uno sport, una sorta di allenamento dell'allenamento? Ovviamente Assolutamente, io sono sempre convinta, e anche qui non sono io che lo dico, ma sono gli studi, che anche se tu sei una persona allenata, andare a modificare il tuo programma di allenamento, anche solo inserendo qualcosa di differente, cambia radicalmente le carte in tavola. Le cambia sotto tanti aspetti. L'intervento muscolare è differente. C'è una bella differenza tra camminare senza bastoni, camminare con i bastoni e camminare con i bastoni da bungee jump, sia a livello cardiocircolatorio che a livello di spinta muscolare. In più devi tenere conto, io butto sempre la palla nel mio campo, che anche a livello neuromotorio andare ad inserire degli esercizi nuovi è una cosa di elevatissimo valore, perché ancora una volta alleni e insegni al tuo corpo a fare magari dei movimenti che sono consueti o molto vicini a quelli che fai consuetamente in una maniera completamente diversa. Quindi questo non solo è un allenamento per il corpo, per il cuore, per i muscoli, ma lo è anche per il cervello. Viene usato per la riabilitazione della parte superiore del corpo, ad esempio dopo gli interventi alla spalla, ma anche e soprattutto per le donne operate di tumore al seno. Ci sono degli studi e progetti in corso molto interessanti, ce ne vuoi parlare? Sì, c'è uno studio in corso all'ospedale di Alessandria con un gruppo di 30 pazienti, donne operate di tumore al seno, perché si è scoperto, io per esempio l'ho scoperto così, me ne sono innamorata per questo motivo, si è scoperto appunto che soprattutto nelle pazienti con l'asportazione dei linfonodi ascellari, questa attività mette in circolo in maniera estremamente positiva e vitale il sistema linfatico e permette quindi tutta la riabilitazione del braccio, che in questo modo si sgonfia. Io ho visto certo. I benefici sulle pazienti. Oppure un'altra attività che appena riusciremo a partire inizierà in collaborazione con l'ospedale San Gerardo di Monza e il Manzoni di Lecco, stiamo organizzando delle camminate con Acto Lombardia, l'associazione di alleanza contro il tumore ovarico, proprio per promuovere un'attività di benessere, di aggregazione certo. E di attivazione delle energie positive per le donne operate. È un in po' più una devo dirti una cosa, Nico, devo sì, dirti una dimmi. Cosa, dai, glielo riveliamo Barbara. In più io e Barbara prima del momento del lockdown ci eravamo sentite proprio perché io volevo proporre questo tipo di camminata anche ai miei pazienti affetti da malattia di Parkinson, perché io sono convinta che anche su di loro, sulla postura, possa avere una valanga di effetti benefici. Non ci resta che incamminarci, come si dice. Intanto, se volete saperne di più, scriveteci, ci sono dei riferimenti che possiamo dare agli amici e alle amiche che, sentendo la vostra descrizione e i vantaggi di questa attività, si sono incuriositi? C'è un sito che è quello che fa capo all'associazione nazionale che si chiama www.bungeepump, che è scritto bungee con la y pump.info, www.bungeepump.info, quello è il sito ufficiale. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Anita Panizza in assistenza, Laura Vanossi in redazione, come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buonissima giornata da Nicoletta.